1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, siamo qui, sono le 7:19 minuti e la 162esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. Ed è cominciata, ovviamente, come sapete, con il primo turno alle amministrative. I risultati, ora, che devo fare? Li abbiamo già detti 45 volte, ma molti di voi si collegheranno in questo momento in onda e mi dicono, e magari mi dicono, dai, dici come sono andati i risultati, lo sapete? Li sapete? Facciamo un breve sondaggio al 349-238-6666. Li sapete grosso modo i risultati nelle grandi città? O avete acceso da un secondo la radio e per cui ogni 3 minuti dovremmo ripeterli? Vabbè, comunque siamo qui nella rassegna stampa e quindi, ecco, no, subito Maria, li sapete, no. Va bene, adesso qualcosa vi dirò. Intanto la lettura dei giornali, che ovviamente oggi sono un po' così, per quel che riguarda i risultati, a metà interessanti, perché le sezioni, gli scrutini sono in corso, però qualcosa si può già evincere dalla lettura dei giornali. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Ecco, invece molti ci dicono basta risultati, parlate d'altro, io non li so, io so già tutto, quindi che fare? Vi mettete d'accordo? Facciamo una roba di mezzo, una roba mediana? Va bene, allora intanto i titoli, signori, i titoli, come i giornali leggono il primo turno delle amministrative. Per il Corriere della Sera, balzo dei 5 Stelle, il PD soffre. Per Repubblica, sindaci, la Raggi vola a Roma, soffre il PD, ballottaggi a rischio. Per il giornale, Renzi traballa, Grillo marcia su Roma. Il Messaggero, verso il duello Raggi-Giachetti. Per la Stampa, le grandi città al ballottaggio, il titolo più neutrale che ci sia, così ci si salva. Il Fatto Quotidiano, i candidati di Renzi fanno flop, boom Raggi, Milano testa a testa. Per il Manifesto c'è la foto di Renzi col titolo sballottato. Mentre per Libero, pasticciaccio brutto, che follia il centrodestra diviso a Roma, Raggi leader, inseguita da Meloni e Giachetti vicinissimi. Sole 24 ore, invece, l'edizione chiusa venerdì, Sole 24 ore del lunedì, tasse, mobilità, periferie, l'agenda delle grandi città. Oh, c'è da dire per quel che riguarda i grandi risultati, vediamo adesso già qualche commento sui giornali. Comunque, tutte le grandi città capoluogo, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, vanno al ballottaggio. È vero che a Roma vanno al ballottaggio Virginia Raggi al 35,6% e molto probabilmente Roberto Giachetti, che è al 24,6, perché Giorgia Meloni al momento è al 20,7%, ma rimangono ancora 600 sezioni circa da scrutinare. A Milano invece testa a testa Sala al 41,6, Parisi al 49, sono loro che vanno al ballottaggio certamente, così come a Napoli vanno al ballottaggio De Magistris, sindaco uscente, al 42,4, molto probabilmente col candidato di centrodestra Giovanni Lettieri, mentre che batte per il momento di 3 punti percentuali Valeria Valente. A Torino vanno al ballottaggio Fassino al 41,8 e Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, al 38%, e a Bologna Merola del PD e probabilmente, molto probabilmente, Lucia Borgonzoni della Lega, mentre Bugani del 5 Stelle è fermo 6 punti percentuali sotto la Borgonzoni. Questo a grandi linee. I commenti intanto sul Corriere della Sera e su Repubblica e sul Messaggero, si va subito a sondare l'umore di Matteo Renzi, il Premier. Maria Teresa Meli racconta, pagina 5 del Corriere, diciamo la verità. Per noi si tratta di amministrative difficili, non possiamo nasconderlo. Con questi risultati però, se lavoriamo bene, possiamo vincere a Milano e a Torino. Renzi, insomma, ammette, era un test difficile. I grillini vediamo che sanno fare. Renzi dice ai suoi collaboratori, i grillini non saprebbero governare la capitale, tantomeno nelle condizioni in cui è ridotta. E poi ancora, sarebbe imbarazzante se ci fosse una saldatura di grillini e centrodestra ai ballottaggi. Come glielo spiegano i loro rispettivi elettorati? Quindi ora tanto vale insistere e cavalcare la battaglia referendaria. Del resto, ribadisce Renzi, è questo il mio obiettivo. Questo sul Corriere della Sera, e anche su Repubblica si racconta di un Renzi che per la prima volta inserisce una parola che nel gergo renziano non c'è quasi mai, vale a dire preoccupazione. Goffredo De Marchis lo racconta a pagina 3 di Repubblica. La preoccupazione di Renzi. Renzi fa scattare l'allarme. Se non siamo in corsa in quattro città, per noi può cambiare tutto. Insomma, racconta del disorientamento Repubblica davanti alle proiezioni percentuali delle comunali. Lo spiazzamento con un PD che rischia dappertutto. Può uscire dalla sfida di Roma. In realtà dovrebbe entrare con Giachetti. Perfino a Torino il sindaco uscente Fassino viene avvicinato dalla candidata 5 Stelle, dimostrando che c'è qualcosa nel voto locale che investe anche lui, il premier, la sua strategia, il suo governo, può avere ripercussioni sul referendum di ottobre. E così anche il Fatto Quotidiano. Per Renzi è già una sconfitta, paura per ottobre. Questa è una prima analisi di Wanda Marra a pagina 3 del Fatto Quotidiano. C'è da dire che se uno salta sul Messaggero trova invece nel Messaggero qualcosa di diverso, e c'è un Renzi che racconta, almeno Marco Conti a pagina 8, non è poi così grigio. La soddisfazione di Renzi, più forti per il referendum. Vedete dunque che questa è la straordinaria analisi della politica. Da una parte si dice Renzi preoccupato, dall'altra parte Renzi soddisfatto. D'altronde è il mantra della politica del giorno dopo le elezioni, quando tutti hanno sempre vinto in Italia. Da che io sono piccolo e guardo i commenti dopo le elezioni, tutti dicono ho sempre vinto. Abbiamo retto e mandiamo ovunque i nostri candidati al ballottaggio, forse eccetto Napoli, dice Renzi in un primo commento, anche se non è un voto per il governo. In realtà appunto a Napoli non ci va, probabilmente invece va a Roma, sicuramente va a Milano e sicuramente anche a Torino e a Bologna, questo nei grandi comuni. Renzi, insomma, soddisfatto secondo il Messaggero. Questo per quel che riguarda la prima analisi, per quel che riguarda la compagine di governo, se volete. C'è un'analisi anche relativa a Verdini, che viene considerata una stampella del governo. Pagina 22 del Corriere della Sera, Monica Guerzoni racconta Verdini male la prima, ma guardiamo a ottobre, anche Verdini guarda dunque a ottobre. Mire sul governo non ne abbiamo, dice Verdini, il nostro solo obiettivo è vincere la battaglia al Senato. Certo, Verdini, che si è impegnato per la candidata del PD Valente a Napoli, che probabilmente non andrà al ballottaggio, alla domanda al PD ha sbagliato candidato? No, ho sentito tanti giudizi, a me invece Valente sembra una grande persona. Comunque la maratona al comitato elettorale, siamo a bordo campo a vedere che succede, così Denis Verdini racconta dal punto di vista della stampella governativa, chiamiamola così, la situazione. Prima però di andare al commento degli altri voti delle amministrative, perché c'è anche altro sui giornali, viva Dio, e raccolgo anche l'invito di coloro che mi dicono parlate anche d'altro, cercheremo di parlare anche altro, sicuramente in rassegna stampa ci sono anche altre notizie sui giornali. Per esempio, voglio ripristinare il premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata, anche oggi c'è il premio Mani sul volante, lo trovo sul Corriere della Sera. Giusy Fasano racconta dall'Aquila, il terremoto, la storia dell'ingegner Diego De Angelis, accusato e condannato in primo grado in appello per il terremoto del 2009, il crollo di una palazzina che aveva ristrutturato. Pensate, in questa palazzina era morta anche sua figlia, e lui ha dovuto subire un processo per i rifacimenti che aveva fatto del tetto. L'altro giorno è stato assolto in Cassazione perché il fatto non sussiste. Mia figlia morì sotto le macerie, assolto dopo un incubo di 7 anni. È la storia appunto dell'ingegner Diego De Angelis, professore di fisica e matematica, vita e famiglia in un palazzo nel centro storico dell'Aquila, che si offrì per progettare gratis la nuova copertura del condominio in cui vive, visto che c'erano infiltrazioni ed è considerato uno tra i migliori professionisti della città. Dunque nel palazzo non ebbero dubbi, lasciano che sia il suo studio a occuparsi del progetto. Nel giro di pochi mesi la nuova copertura risolve i vecchi problemi. Ma il 6 aprile 2009 c'è il terremoto, la palazzina crolla, muore anche sua figlia tra le vittime. E ora lui dice: pensate che cosa significa sentirmi dire che ho ammazzato mia figlia. Mi hanno accusato di aver fatto crollare il palazzo con un progetto che ha appesantito il tetto, mentre era vero il contrario. Mi hanno condannato in primo grado, mi hanno condannato in secondo grado, mi hanno interdetto dai pubblici uffici. Avrei dovuto pagare 47 milioni di danni. Volevano annientarmi, mi sembrava tutto incredibile. Poi l'assoluzione in Cassazione. I giudici, dice De Angelis, mi hanno assolto. Ho avuto giustizia, come si suol dire, ma non me l'hanno regalata, me la dovevano, e per fortuna i giudici della Cassazione l'hanno capito. Ma ora, lui dice, sono arrabbiatissimo lo stesso col Padre Eterno, perché per me giustizia sarebbe stata un'altra cosa, sarebbe stato più giusto prendere me quella notte e non mia figlia Jenny. Eccolo qua, mia figlia morì sotto le macerie, assolto dopo un incubo di 7 anni. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Seta tito tita tito tutti tita tito. Dialetto ferrarese. Evviva i vostri scioglilingua. Cos'è che vuol dire questo in dialetto ferrarese? Tu, Peter, mi scappate, non sai tradurre. Se magari ci date anche una spiegazione sommaria, magari ci fate una cortesia. Insomma, ho capito che tita, tita, tita, tito, tito, tito, tito, tito, una roba del genere. Comunque, mandatecele al 349-238-6666, i vostri scioglilingua preferiti nei vostri dialetti, nelle vostre lingue. Allora, torniamo alle amministrative, detto della situazione un po' caotica all'interno del Partito Democratico con la reazione di Renzi. Sembra un po' più caotica ancora nel centrodestra. Dai comuni un verdetto che cambierà il centrodestra. Ora le primarie diventano parola d'ordine. Questa è per esempio l'analisi di Francesco Verderami. A pagina 6 del Corriere della Sera racconta Verderami: l'epicentro del terremoto nel centrodestra è Roma, ma l'onda d'urto colpirà Milano. Le amministrative potrebbero cambiare definitivamente il volto, la natura del centrodestra, perché se era stato Salvini a sostenere che dopo le elezioni nulla sarà come prima, sentir parlare ora di Red Rationem dentro Forza Italia, sentir dire che la coalizione sopravvivrà senza Berlusconi, testimonia la valenza politica delle comunali. Insomma, per Verderami la parola d'ordine ora sarà primarie, e comunque c'è una crepa che esce da queste amministrative nel centrodestra diviso, che è destinata a creare qualcosa di più di qualche scossone. E tra l'altro, nell'intervista che Salvini rilascia all'1:30 di notte alla Stampa, qualcosa già si intuisce di tutto ciò. Lo schiaffo di Salvini a Berlusconi: solo dove c'è la Lega si può vincere. Dice Salvini: dove la Lega c'è si va al ballottaggio, dove la Lega non c'è si va al disastro. Rivendica il ruolo centrale della Lega. Spero di andare al ballottaggio con la Meloni a Roma, dice Salvini, ma dai risultati abbiamo visto che è difficilissimo che possa essere così. Il ballottaggio sarà Raggi, presumibilmente Giachetti. È chiaro, annuncia Salvini, che a Roma Berlusconi ha sbagliato tutto, Marchini è stata una scelta suicida, e così alla fine Berlusconi ha aiutato la sinistra. A Milano invece è tutto aperto, 0-0, palla al centro. E poi sulla domanda: dovesse andare al ballottaggio Raggi, Giachetti, chi si vota? Raggi, di certo non si votano i democratici, così dice Salvini. Certo, che la situazione sia delicata nel centrodestra è dir poco, così anche nel centrosinistra. C'è da dire che in questo momento chi gioisce veramente a mani basse, almeno dopo il primo turno, è il Movimento 5 Stelle. E infatti l'analisi di tutti i giornali è questa, anche pagina 12 del Corriere: Raggi sfonda Movimento 5 Stelle, primo partito. E poi i giornali titolano le sfida tra Giachetti e Meloni, ma si sa, i giornali sono andati in stampa e quindi sono molto meno aggiornati rispetto a quello che possiamo dire noi per quel che riguarda i risultati al momento, appunto, a Roma. Giachetti al 24,7, la Meloni al 20,7, mancano da scrutinare circa 500 sezioni su 2600, insomma è sempre più probabile che il ballottaggio sia Raggi-Giachetti. Ma dicevo del Movimento 5 Stelle, come racconta Mauro Favale a pagina 5 di Repubblica: Virginia al telefono con Beppe Grillo, resisto e vinco il Campidoglio. Gli asfaltiamo, aveva detto quasi sussurrando, poco convinta, dal palco di Piazza del Popolo. Ci voleva una scossa, ora è davvero il nostro momento. Ora bisogna tenere duro fino al 9 giugno, dice l'aspirante sindaco circondata dai parlamentari romani, Alessandro Di Battista, Paola Taverna, Stefano Vignaroli, Roberta Lombardi. Si parla in questo articolo di Repubblica di una telefonata tra Beppe Grillo e Virginia Raggi. Brava, ha detto Grillo alla Raggi prima di promettere un messaggio per festeggiare il risultato. Ora comincia un'altra partita, dicono dallo staff della candidata. Insomma, resisto e vinco il Campidoglio. Il titolo invece del Corriere della Sera, pagina 14, è questa: sono pronta a governare. Virginia ringrazia i romani. Per quel che riguarda invece Milano, abbiamo detto, è testa a testa tra Sala e Parisi, sono i due candidati che andranno al ballottaggio. Qui è tutto molto aperto, evidentemente, perché bisognerà capire, per esempio, coloro che hanno votato, sono il 10% il candidato del Movimento 5 Stelle che arriva terzo, chi voteranno al ballottaggio, i cittadini che non sono andati a votare, chi voteranno. Insomma, una sfida apertissima a Milano. A Napoli, De Magistris doppia i Dem, Lettieri è in vantaggio sulla Valente, quindi l'analisi dei giornali: De Magistris sarà nettamente il favorito per quel che riguarda il ballottaggio al secondo turno. Questo per quel che riguarda l'analisi dei comuni, ovviamente i comuni più importanti, molti ci scrivono, ma insomma gli altri comuni che fine hanno fatto? Beh, ci sono ovviamente tutti i risultati di tutti i comuni, non è che si può fare però l'elenco dei 1300 comuni che sono andati al voto. Potete vedere i risultati, ma comunque che dobbiamo dire, tutti uno per uno non li possiamo elencare, questi sono i comuni più importanti. Ieri c'è da dire che la politica ha fatto gestare anche un momento, secondo me, di cronaca nera molto molto importante, perché è morto per un incidente stradale Gianluca Buonanno, 50 anni, leghista, europarlamentare. Lo sapete, lo conoscete se vedete qualche trasmissione, se avete sentito anche spesso ospite anche qui a Radio 24. Era uno combattivo, uno che non aveva peli sulla lingua, uno che era anche capace di provocazioni molto molto estreme. Buonanno morto in un incidente, il leghista con la pistola in TV, per esempio, riassume così il Corriere della Sera. Quello che mi ha veramente disturbato e dato fastidio è che sui social si è scatenata una serie di persone che si sono divertite a prendere in giro, a ironizzare, a ridere, a scherzare, a gioire della morte del leghista Buonanno, con il quale anch'io non ero d'accordo quasi mai sulle idee che diceva, ma un conto è combattere le idee, un altro conto è gioire per la morte di una persona che lascia due bambini piccoli, lascia dei familiari. Insomma, li ho definiti con un francesismo costoro che hanno ironizzato sulla morte di Buonanno delle grandissime teste di cazzo. e confermo e lo ribadisco all'ennesima potenza, ma proprio giganti, quelle che si vedono in lontananza, quasi all'orizzonte a 10 km di distanza. A questo proposito, oggi su Repubblica c'è un'interessante analisi a pagina 26 sulla mappa dell'intolleranza, proprio analizzando 2 milioni di tweet degli italiani. È una ricerca, racconta Cristina Nadotti, quali siano le categorie più aggredite sui social, in genere le donne e i gay. C'è anche l'elenco delle più grandi risse verbali su Twitter, sui social. Insomma, la mappa dell'intolleranza, una ricerca su 2 milioni di tweet italiani, fa capire che uno su due a volte sono tweet insultanti, sono tweet che servono solo a generare, appunto, e a propagare intolleranza. Che dobbiamo fare? Di questo ci dobbiamo anche occupare. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Visto che mi hai fatto precedere al francesismo, quindi sì, siamo proprio oramai al turpiloquio. No, assolutamente. Ah, no, non era. Temevi ritrovato quando ho detto a questo proposito. No, appunto, non vorrei che ci fosse una pericolosa giuntura tra ciò che precede il mio intervento e l'intervento stesso. Assolutamente. Va bene. Allora, io darei lettura, essendo lunedì, degli endecasillabi del lunedì. Ottimo. Vorrei anche segnalare che poi invierò alla redazione, all'ottimo Nespoli, il testo integrale, così potrà metterlo, se vuole, sulla pagina Facebook. È fondamentale. Non credo che interessi granché per la letteratura italiana, ma lo faccio lo stesso. Ma per il sito del 24 mattino, sì. Benissimo, allora, molto contento di questo, vado a leggere, a declamare, salgo sulla sedia. Volean lo voto nostro, che è essenziale, li candidati con voraci slanci. Or proveran, siccome san di sale, li conti dei comuni e di bilanci. Se ancor non l'han capito, qual migliore esempio potrà darsi che il tesoro di cifre che oggi il Sol 24 ore presenta sulle grane, che or son loro. Pedali, chi già volle bicicletta, perché il lettore nostro guarda avanti, all'IMU, alla scadenza che s'affretta e dalle nuove norme per gli amanti. Da Cirinnati, dico, che è vigente e li diritti tutti ha rinnovato. Congedi, detrazion, che gran fermente, ma in foglio 9 tutto avrai spiegato. Lo tempo, che ora è poco, non consente di dirti nel dettaglio i temi miei. Lavoro, sì, giustizia è pur presente, il redditometro e anche gli europei. E intendo per davvero quel torneo che appassionerà fino al Mar Baltico. Ma ormai noi siamo più prossimi al Borneo. Sbagliai l'accento per lanciarti il traffico! Alessandro Milan, il più bischero dell'informazione. E questo si sa, questo si sa. Grande Meazza, strepitoso Meazza, immenso Meazza, ineguagliabile Meazza, un poeta la Carlo Porta. Questi sono i resoconti dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. Allora, vogliamo parlare di qualcosa che c'è sui giornali che non siano le elezioni? Sì, sì, lo so. Prendiamoci una pausa, una boccata d'aria, tanto dopo dalle 8:15 parleremo ovviamente ancora delle elezioni. Anzi, vi invito già subito dalle 8, però non adesso, dalle 8 prenotatevi, le chiamate all'800 24 00 24, chiamateci per dire il vostro parere sulle elezioni, chi ha vinto, chi ha perso, chi ha pareggiato, chi è andato bene, chi è andato male, chi sale, chi scende, diteci la vostra dalle 8. Allora, dicevamo, in Svizzera, ne abbiamo parlato questa settimana con Oscar Giannino, in Svizzera il referendum per dare un reddito minimo garantito a tutti i cittadini è fallito, cioè ha vinto il no. È stato bocciato nettamente il referendum che voleva rivoluzionare il welfare con un salario mensile garantito di 2.250 euro a ogni cittadino svizzero. Avete capito, gli svizzeri. Ne abbiamo parlato con l'economista, uno degli economisti che era promotore del sì. Ci aveva già preannunciato, guardate che sicuramente vinceranno i no, ma l'importante è aver lanciato il dibattito. Il quesito è stato proposto per risolvere la disoccupazione, e cioè, chiedere, si chiedeva se si volevano dare 2500 franchi svizzeri, appunto 2250 euro, a tutti i cittadini residenti in Svizzera. Ovviamente in Italia sarebbe stato un trionfo del sì, in Svizzera invece, dove il governo aveva detto no, perché questo sarebbero stati dei costi insostenibili per il governo svizzero, alla fine hanno vinto appunto i no, quindi non ci sarà mai, non ci sarà questo reddito minimo per i cittadini svizzeri. Invece il ministro del lavoro Poletti, ieri al Festival dell'Economia di Trento, ha annunciato che cosa? Il Social Act. In arrivo il Social Act contro la povertà. Sì alla flessibilità delle pensioni. Poletti ha annunciato misure che saranno nella legge di stabilità del 2017, per la verità. E dice il ministro: dobbiamo mettere in campo nuove politiche sociali perché nessuno resti indietro. I cittadini vanno aiutati non solo quando devono cercare lavoro, ma anche sostenuti perché non peggiorino le loro condizioni di vita quando lo perdono. Per questo ho sintetizzato con una frase gli interventi che mi impegno a sostenere. Dopo il Jobs Act è il momento di un Social Act, lo annuncia così, e cioè un provvedimento a sostegno delle persone contro la povertà. Ora bisognerà capire in che cosa si concretizza, ma questo è l'annuncio di Poletti. Per quel che riguarda invece i migranti, fa discutere la proposta del ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz. Ha parlato con il quotidiano Die Presse e ha detto: bisognerebbe mettere i migranti su isole come a Ellis Island, come facevano gli americani. I migranti li si può internare nelle isole greche mentre l'Europa controlla le richieste d'asilo, come gli Stati Uniti fecero a Ellis Island, e chi tenta di entrare illegalmente deve perdere il diritto d'asilo. Questa è la proposta del ministro degli esteri austriaco Kurz, che dice: dobbiamo imparare dall'Australia, niente asilo a chi arriva illegalmente. Una proposta forte. Chi attende su un'isola senza possibilità di asilo si convincerà più facilmente a tornare indietro rispetto a chi già abita in un appartamento a Vienna o Berlino. Questa è la proposta che viene raccontata da Repubblica a pagina 21. Tra l'altro c'è anche un'intervista a corredo di questa proposta, l'intervista è al quotidiano Die Welt e tradotta e proposta Repubblica al primo ministro della Libia al-Sarraj, il primo ministro quello messo dall'ONU e dunque quello che sarebbe anche il nostro amico, l'amico della comunità occidentale, e che dice: non accetteremo che l'Unione Europea rispedisca i profughi in Libia. Il premier Sarraj, un accordo come quello fatto con la Turchia, dice: no, da noi la situazione è del tutto diversa e dunque non potremmo accettare questo. Non accetteremo che l'Unione Europea ci rispedisca i migranti, da noi non possono vivere, la situazione che vengono dei migranti che vengono qui dal sud è del tutto diversa da quella della Turchia, non si possono confrontare le due situazioni. Su questo non è difficile neanche dargli torto, Ho una notizia per quel che riguarda la scuola. Flavia Amabile lo racconta sulla Stampa, a me pareva incredibile, l'ho dovuto rileggere 3 volte, ma è vero. Voi non lo sapete forse, ma cari genitori dei vostri figli, dei figli che state accompagnando a scuola, lo sapevate che ci sarebbe una direttiva del Ministero dell'Istruzione del 2007 che vieta l'utilizzo di smartphone a scuola? Cioè... E adesso io ho letto, sono sobbalzato, la scuola ci ripensa, lo smartphone tornerà tra i banchi, cioè verrà cancellata questa direttiva. Perché? Dove sono gli smartphone adesso? Sono già sopra i banchi, sotto i banchi, in mezzo ai banchi, tra gli zaini, tra un banco e l'altro, 2 per ogni banco. Però, insomma, la burocrazia è questa. C'era una direttiva che vietava l'utilizzo degli smartphone, direttiva ovviamente disattesa e non applicata da nessuno, penso quasi nessuno. Adesso verrà cancellata la direttiva e quindi la notizia è che la scuola ci ripensa, gli smartphone sono consentiti. Intanto gli studenti italiani li utilizzavano dal 2007 bellamente a proprio piacimento. Vabbè, è la burocrazia, bellezza. Comunque, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qui, Daniela Ranieri racconta, pagina 16 del Fatto Quotidiano, quasi un'intera pagina sui pranzi di lavoro, e tornano le apericene, quando il convivio è uno strazio, ma non solo il convivio a volte. Ma chi se ne frega!